Baralaro, oye, yo que bordan. Omonia la guanaco, baba que ñira, que. Doniche, Ho Chi Minh, Agualaroye, Aladoniche, Ho Chi Minh.